Diritto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La morte di Giulio Regeni è stata lenta, ci sono segni di torture sul corpo, si apre un caso diplomatico tra Italia ed Egitto per lo studente trovato morto al Cairo, la Farnesina convoca l'ambasciatore esprimendo sconcerto. Flessibilità di bilancio, decideremo a maggio, dice l'Europa all'Italia, la Commissione taglia intanto le stime sui prezzi al consumo in Europa dall'1% allo 0,5%, la BCE non si arrenderà alla bassa inflazione, dice Draghi. Blitz antiterrorismo in Germania, 3 arresti anche nei campi profughi, inizia il carnevale blindato di Colonia, mentre Berlino promette oltre 2 miliardi alla Siria per la crisi umanitaria. Saranno al lavoro tra poco le task force del Comune di Roma sulla nuova Affittopoli, anche sedi di SEL, PD e Fratelli d'Italia nella lista degli inquilini. La Camera dà il via libera a larga maggioranza con il no dei 5 Stelle alla legge per l'assistenza ai disabili dopo la morte dei parenti che li curano. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo della morte del giovane italiano Giulio Regeni, dottorando in Egitto, il cui corpo è stato trovato nelle scorse ore. È un caso che assume, che fa emergere contorni di tensione diplomatica tra l'Italia e l'Egitto. Iniziamo però dalla cronaca. Sono molti al momento senza risposta gli interrogativi sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio scorso al Cairo durante le celebrazioni per l'anniversario di Piazza Tahrir. A rendere più opaca la situazione le dichiarazioni della polizia egiziana che parla di incidente stradale. Secondo i media locali però, sul corpo del giovane ritrovato in un fosso alla periferia della capitale ci sarebbero numerose ferite, coltellate al petto e alle spalle, segni di percosse e di tortura, bruciature di sigaretta. La procura egiziana, citata dalla Associated Press, parla di segni di una morte lenta. Il governo italiano ha chiesto alle autorità egiziane un'indagine congiunta. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e la Farnesina ha convocato d'urgenza l'ambasciatore egiziano a Roma, chiedendo piena chiarezza e il rimpatrio immediato della salma. L'ambasciatore, da parte sua, ha assicurato la massima collaborazione per individuare i responsabili di quello che ha definito un atto criminale. La sera della scomparsa, il giovane dottorando di Cambridge, che si trovava in Egitto da settembre per scrivere una tesi sull'economia egiziana, stava andando a trovare degli amici per un compleanno. Come il suo corpo possa essere stato trovato su quella strada desertica che collega il Cairo ad Alessandria resta al momento un mistero. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, tutto questo sta alzando un po' di tensione diplomatica tra l'Egitto e l'Italia. Sono di pochi istanti fa nuove dichiarazioni del ministro degli esteri Gentiloni. Facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Tensione diplomatica che vede il Ministero degli Esteri in primo piano nella richiesta all'Egitto che sia fatta chiarezza. Ma quali le prime mosse? Su indicazione del ministro Gentiloni, il segretario generale della Farnesina, Valen Sisa, ha convocato con urgenza l'ambasciatore egiziano Amr Kamal Elmi per esprimere lo sconcerto del governo italiano per la tragica morte di Regeni al Cairo. Chiediamo fermamente all'Egitto che le autorità italiane possano collaborare alle indagini sulla morte del nostro connazionale, perché vogliamo che la verità emerga fino in fondo, ha detto lo stesso Gentiloni. Lo dobbiamo in particolare alla famiglia colpita in modo irreparabile, ma che almeno pretende di conoscere la verità, ha aggiunto il ministro degli esteri. Il ministro dello sviluppo economico Guidi, lo ricordiamo, ieri in Egitto per una missione imprenditoriale, ha intanto interrotto la visita, rientrando questa mattina a Roma. Un minuto di silenzio è stato osservato nell'aula del Senato, sconcerto tra le forze politiche che chiedono chiarezza. E infine a Fiumicello, Udine, paese di origine di Regeni, è in corso da questa mattina in municipio una riunione per decidere le iniziative da prendere. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E proprio su questa tensione diplomatica tra l'Italia e l'Egitto in seguito alla morte di Regeni torneremo più avanti, ne parleremo con Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore, che spesso si occupa di queste vicende e di vicende diplomatiche. Siamo adesso alle previsioni della Commissione Europea sull'economia, previsioni che si mescolano al tema dei rapporti tra l'Italia e Bruxelles sulla flessibilità. Intanto dal presidente della BCE arriva un nuovo messaggio importante. Sentiamo. Previsioni economiche d'inverno, un'occasione per il commissario Moscovici per fare chiarezza alla Voce Italia su tutto quanto è stato detto e scritto in questi giorni sulla flessibilità. L'Italia ha ricevuto 0,4 punti per fare le riforme strutturali, riforme che sta attuando, l'unico paese a godere di questa clausola. Poi ha chiesto altri punti di flessibilità per altre riforme, poi per gestire l'emergenza profughi, poi per la sicurezza e poi per la scuola. Su tutte queste altre richieste la Commissione deciderà secondo un calendario preciso. Non prima di maggio, sostenendo le riforme, ma rispettando le regole. Per il resto le previsioni per il nostro paese sono state riviste, così come per tutta l'area euro. 1,4 nel 2016, 1,3 nel 2017. Deficit in crescita, debito in leggero calo. L'Europa continua a beneficiare di fattori positivi come il calo del prezzo del greggio, afferma il commissario, e l'euro più debole, ma ha risentito di alcuni fattori quali il rallentamento delle economie emergenti e in particolare il caso Cina. Ma la nota dolente è l'inflazione. Per l'anno in corso è prevista allo 0,5%, dimezzata rispetto a quanto preventivato a novembre. La previsione, che sa molto di speranza, è che risalga all'1,5% nel 2017, con salari più elevati, maggiore domanda interna e un aumento moderato del prezzo del petrolio. Il cruccio di Francoforte, da dove Draghi ripete la BCE non si arrenderà davanti alla bassa inflazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro economico generale che arriva dalla Commissione europea e le parole del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Ma l'altro tema all'attenzione in queste ore, soprattutto in Italia, è quello delle banche. Vi dico subito che oggi è una giornata ancora di una certa tensione sui mercati. Milano ha aperto molto bene, guadagnando oltre il 2%, è arrivata a perdere lo 0,8%. In questo momento il FTSE All-Share guadagna lo 0,33%, il FTSE MIB mezzo punto percentuale. Questa mattina ancora le banche erano negative. Detto ciò, il tema è anche di politica economica, perché questa mattina c'è stato un incontro tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan per definire le nuove misure per il settore bancario, tra queste la riforma delle banche di credito cooperativo, che, notizia di poco fa, fonti del Tesoro, sarebbe slittata in realtà alla settimana prossima. Che cosa potrebbe contenere? Ne parliamo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa si prevede che contengano queste misure per il settore bancario? Partirei dalla riforma delle BCC. Sì, ma come dicevi, è il decreto che dovrebbe registrare tutto ciò che è avvenuto negli ultimi mesi, a partire appunto dalla riforma delle banche di credito cooperativo. Sono quasi 400. Obiettivo è quello di fatto spingerle a integrarsi in una unica capogruppo che di fatto da un lato controllerà, o meglio vigilerà, sulle singole banche, ma anche garantirà che in caso di necessità di fatto il patrimonio comune possa soccorrere quelle eventualmente in difficoltà. Però, cosa importante, ogni singola banca di credito cooperativo sopravviverà, quindi sopravviverà con le sue filiali, con i suoi prodotti e quant'altro. Come dicevi, sembrava che dovesse essere domani il giorno buono che peraltro aspettiamo da mesi, perché è dall'estate che la riforma è più o meno pronta in linea generale. Invece probabilmente dovremo pazientare una settimana in più, anche perché nel decreto, che a questo punto chissà dovrebbe arrivare settimana prossima, finiranno le famose garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni, che è cosa di cui abbiamo parlato 10 giorni fa, più altre norme che dovrebbero sempre favorire lo smobilizzo dei crediti in sofferenza, che come sappiamo è l'altro tema delicato delle nostre banche. Brevemente, Marco, aggiornamenti sul fronte di quello che viene chiamato risico bancario, che in realtà sono tutti tentativi di aggregazione soprattutto tra le banche popolari. Oggi è giornata di incontro tra l'amministratore delegato del Banco Popolare Saviotti e quello di BPM Castagna. A Banco BPM sembrano le due più vicine alle nozze. Scopriremo probabilmente nel pomeriggio se gli ultimi ostacoli, soprattutto in termini di governance, di concambi molto difficili da calcolare, visto che ogni giorno le banche perdono o guadagnano 5-10%, quindi oggi sicuramente è tema di giornata. E più indietro gli altri, perché a partire dal Monte, insomma, non è facile ragionare di fusioni con questa volatilità. E certamente. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, come sempre, per i suoi puntuali aggiornamenti. Ci spostiamo a Londra, dove si sta svolgendo il vertice sui donatori per la Siria, e la Germania promette una cifra decisamente consistente. Nell'ultimo dei suoi bollettini, l'Osservatorio Siriano per i diritti umani riferisce di 260.000 morti dall'inizio del conflitto 5 anni fa e di 5 milioni di siriani in fuga. e sappiamo bene verso che parte di mondo, quando non si fermano in Libano, che ospita 1.200.000 rifugiati, o in Turchia, che ospita quasi 2.500.000 di profughi e, non a caso, sarà profumatamente sostenuta dall'Unione Europea per continuare ad ospitarli. Sono cifre spaventose, frutto delle violenze del regime, ma anche dei troppi attori in campo che hanno perseguito e perseguono obiettivi strategici e politici diversi. Oggi a Londra si è aperta una nuova conferenza dei donatori per la Siria e non mancano le parole e le promesse di solidarietà. La Germania, ad esempio, ha annunciato una donazione di 2,3 miliardi di euro e la Gran Bretagna di 1,6 miliardi. L'obiettivo dichiarato è aumentare gli stanziamenti previsti dalla precedente conferenza in Kuwait, peraltro disattesi, per arrivare a un totale di donazioni di 9 miliardi di dollari. Ieri però a Ginevra non è stato compiuto un solo passo avanti per la pace, che sarebbe l'unica vera stabilizzatrice del paese. Niente alibi, ha detto l'inviato dell'ONU Staffan de Mistura. Questa conferenza non avrebbe portato alcun beneficio alla popolazione. Tutto rinviato quindi a fine febbraio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Abbiamo parlato della Germania come donatore per le emergenze umanitarie in Siria, 2 miliardi e 300 milioni di euro, Germania nella quale oggi sono stati arrestati dei presunti terroristi e nella quale a Colonia i festeggiamenti per il carnevale avvengono in un clima particolare dopo i fatti di Capodanno dei quali lungamente abbiamo parlato. Il servizio. Il timore di attentati aveva messo in dubbio la stessa sfilata di carnevale, insieme alle preoccupazioni del post Capodanno a Colonia. Tre algerini sono stati arrestati in Germania con l'accusa di preparare attacchi terroristici. Si tratta di due uomini e una donna, probabili militanti dell'ISIS e già componenti almeno uno di un gruppo estremista. Da giorni le preoccupazioni nel paese erano cresciute, insieme alla caccia ad un uomo che avrebbe acquistato materiale utile per la preparazione di ordigni e insieme all'avvicinarsi del carnevale al via da oggi a Colonia, meta ogni anno di più di 1 milione di visitatori. Alle 11.11, come da tradizione, la sfilata è partita tra caricature dei politici, banda e straordinarie misure di sicurezza, compreso un punto di polizia riservato solo alle donne. Lo shock delle molestie di massa di Capodanno, che hanno portato alla fine 776 ragazzi a denunciare, è ancora molto forte lungo il Reno e in tutto il paese, che da allora ha rimesso in discussione la politica delle porte aperte ai migranti della cancelliera. Ma garantiremo a tutti il diritto di festeggiare, promette il capo della polizia Mattias, che introduce una limitazione: niente costumi da jihadisti o cowboy. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca italiana, iniziamo con la cronaca che si mescola con la politica, la vicenda dell'Affittopoli romana. Una perdita per mancati introiti pari ad almeno 100.000 euro l'anno. Tanto costa Affittopoli alle casse del comune, una voragine nei conti del Campidoglio stimata anche per difetto. A farlo sapere il commissario capitolino Francesco Paolo Tronca, che a questo punto vuole vederci chiaro. Voglio almeno 30 verifiche al giorno, dice, annunciando l'avvio immediato di due task force che cominceranno ad operare sul caso degli appartamenti del comune affittati a prezzi stracciati. Una squadra informatico-amministrativa, anche con il supporto dell'Agenzia delle Entrate, procederà alla completa mappatura del patrimonio, circa 28.000 alloggi popolari. La seconda operativa logistica si occuperà di condurre contemporaneamente le verifiche e gli accertamenti sul campo. Certamente tra gli immobili del comune c'è di tutto, dall'edificio rinascimentale al fabbricato in via di bonifica per la presenza di amianto, e il fenomeno si estende a tutti i municipi. All'interno semplici inquilini, ma anche associazioni, cooperative, come il caso dell'immobile dato su per scontato per anni alla COP 29 giugno di Salvatore Buzzi, e sedi di partito. Sessel e Fratelli d'Italia, ad esempio, per i locali di Via delle Terme di Traiano pagano 12,9 euro al mese di locazione. La storica sezione dei Giubbonari del PD deve al comune almeno 176.000 euro di arretrati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Questo il quadro appunto dell'Affittopoli romana. Per rimanere sulla cronaca, c'è una vicenda che arriva stamattina, una notizia data dai carabinieri riguarda un altro caso di violenze in una scuola materna. È stata arrestata questa mattina un'educatrice scolastica di 58 anni accusata di maltrattare i bambini di un asilo nido nel Pisano. L'educatrice accusata di maltrattamenti ai danni appunto di 9 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. Le immagini diffuse anche dai carabinieri, tra l'altro, sono drammatiche, appunto, con violenze e minacce. Nelle settimane scorse era diventato quasi un tormentone l'inseguimento dell'Audi gialla. Ora gli investigatori ne sono convinti, i banditi viaggerebbero su una BMW grigia o nera, non si sa. Una BMW scura, probabilmente nera, è su quest'auto che viaggerebbero i banditi dell'Audi gialla. L'inseguimento questa volta è avvenuto nei pressi di Desio, vicino Monza, martedì notte. I carabinieri che l'hanno inseguita in un pericoloso tallonamento l'hanno poi persa, ma per l'intera notte è rimasta l'auto più ricercata della zona, anche perché il sospetto è che a bordo ci siano gli stessi uomini che tra il 16 e il 23 gennaio da Padova a Trieste sono scappati da polizia e carabinieri percorrendo autostrade contromano, abbattendo barriere dei caselli e forzando posti di blocco. L'Audi gialla è stata trovata, bruciata a mezzanotte di lunedì 25 gennaio in provincia di Treviso, ma prima, il 23 gennaio, sarebbero arrivate segnalazioni attendibili sempre dalla provincia di Treviso, in cui questa volta si parlava di una BMW Station Serie 5 che risulta rubata 10 giorni prima a Milano. E questa potrebbe essere l'auto che è sfuggita all'inseguimento dei carabinieri martedì sera. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica, ancora ovviamente col DDL sulle unioni civili, che prosegue il suo cammino al Senato e che potrebbe trovare nuovi ostacoli da quel che abbiamo letto questa mattina. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, allora continua la battaglia del nuovo centrodestra sulla Step Child Adoption e anche quella personale del ministro della Salute Beatrice Lorenzin sull'utero in affitto, il cui ricorso, ricordiamo, però è vietato per legge. Per Lorenzin però il dibattito politico è legato al tema delle adozioni sul disegno di legge Cirinna, fa in modo di far rientrare dalla finestra quello che avevamo tenuto fuori dalla porta, anche con l'applicazione della norma sulla eterologa non più tardi di pochi mesi fa. C'è poi il tema delle donne, riprende Lorenzin, perché l'utero in affitto è una nuova schiavitù. Il PD comunque non intende stralciare la parte sulla possibilità di adottare il figlio del partner in una coppia omosessuale, lo ribadisce Giuseppe Lumia, capogruppo PD in Commissione Giustizia al Senato. Importante è il confronto, ma non ci sarà nessuno stralcio di alcuna parte. Il test sulla SEP Child Adoption per Lumia è equilibrato. Ieri ancora l'avvertimento del Movimento 5 Stelle che non voterà un testo impoverito, e ieri è anche stato raggiunto l'accordo per lo sfoltimento degli emendamenti e la limitazione dei voti segreti che tanto temono nel PD. Mercoledì al Senato si inizia a votare e quindi si vedrà cosa succederà nel segreto dell'urna. Buona, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi torneremo a parlare della vicenda, soprattutto del lato diplomatico, della vicenda di Giulio Regeni, il ragazzo italiano che è morto, che è stato ucciso in Egitto, il cui corpo è stato ritrovato ieri. E poi una vicenda particolare. Il titolo del Corriere della Sera oggi recita così: il licenziamento del professore perché fece pipì in un cespuglio. Tutto questo avviene a Bergamo e ne parleremo proprio con la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, appunto, di Bergamo. Traffico a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la morte di Giulio Regeni, il ragazzo italiano il cui corpo è stato trovato al Cairo, è stata lenta, riferiscono fonti investigative, e ci sono segni di torture. Si apre un caso diplomatico tra Italia ed Egitto, Gentiloni chiede indagini congiunte. Notizia di pochi istanti fa: l'aeroporto di Madrid è stato messo in allerta dopo che il comandante di un aereo della compagnia saudita Saudi Airlines in volo dalla capitale spagnola verso Riyadh ha informato la torre di controllo di una minaccia, lo riferisce El País. Vi daremo aggiornamenti appena ne avremo. Flessibilità di bilancio, decideremo a maggio, dice l'Europa all'Italia. La Commissione intanto taglia le stime sui prezzi al consumo in Europa dall'1 allo 0,5%. La BCE non si arrenderà alla bassa inflazione, dice Draghi. Un blitz antiterrorismo in Germania, 3 arresti anche nei campi profughi. È iniziato questa mattina intanto il carnevale blindato a Colonia dopo i fatti di Capodanno. Saranno al lavoro tra poco le task force del Comune di Roma sulla nuova affittopoli, anche sedi di SEL, PD e Fratelli d'Italia nella lista degli inquilini. Anche di questo torneremo a parlare più avanti. Intanto voglio salutare Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Gerardo, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Allora, come si diceva, la vicenda drammatica della morte di Giulio Regeni, il dottorando italiano che era al Cairo appunto per fare una tesi, tra l'altro, sull'economia egiziana, sta creando un problema diplomatico tra Italia ed Egitto. Addirittura il ministro degli esteri Gentiloni chiede adesso indagini congiunte. Innanzitutto ti chiedo se secondo te questa è un'ipotesi praticabile, e poi ti chiedo di darci un'idea più generale di questa tensione che si sta generando. Ma è davvero una brutta storia, e tutti veramente, sia a Roma che al Cairo, si augurano che questa vicenda non pregiudichi i rapporti davvero eccezionali che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno si sono creati tra i due paesi, soprattutto per la collaborazione che c'è nella lotta a Daesh e al Califfato. Finora abbiamo soltanto notizie, questo è bene ricordarlo, da parte appunto della magistratura, della procura egiziana, e da parte di alcuni siti che si occupano di diritti umani. La famiglia e l'ambasciatore al Cairo, il nostro ambasciatore Maurizio Massari, non sembra che abbiano ancora, siano riusciti ad ottenere il via libera per il riconoscimento della salma. Ci sono molti lati oscuri da chiarire. Innanzitutto queste tracce di violenza, bruciature, alcuni tagli, percosse trovate sul corpo del ragazzo, che mal si concilierebbero con quella che è la tesi secondo cui si sarebbe trattato solo di un incidente stradale. Erano giorni che il ministro Gentiloni al suo omologo Shukri aveva chiesto informazioni sulla sparizione di questo ragazzo, e soltanto ieri il ministro Guidi, in un colloquio a quattro occhi con il presidente Al-Sisi, ha posto con molta energia il caso. E allora, a questo punto, raccontano chi era lì nella delegazione insieme al ministro Guidi, avrebbe chiamato un suo assistente, evidentemente delegato ai problemi della sicurezza, e in modo perentorio avrebbe detto: trovate e fate di tutto per trovare questo ragazzo. Dopo sei ore è avvenuto quello che doveva avvenire, cioè la triste notizia del ritrovamento in una periferia del Cairo verso Giza, appunto, del corpo. Quindi la sostanza, Gerardo, è che ci è voluta una pressione pesante del nostro governo perché si arrivasse a una ricerca effettiva, insomma, appunto. Assolutamente. Il segretario generale della Farnesina, Michele Valenzise, ha convocato per oggi l'ambasciatore al Cairo qui a Roma, proprio per, come dire, chiedere ovviamente la massima collaborazione e chiedere appunto la possibilità di una indagine congiunta. Sulla possibilità di un'indagine congiunta, insomma, ci sono anche molti dubbi. Basterebbe, insomma, avere già chiaro un poco il quadro. Sì, le voci più diverse sono rincorse nelle ultime ore, tra le quali anche quella che sarebbe stato vittima di un fuoco di alcuni poliziotti che lo avevano scambiato per un partecipante a una manifestazione di protesta, ma appunto sono voci non confermate, incontrollate, e quindi c'è ancora molto mistero su questa vicenda. Ti ringrazio, grazie a Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti. Vogliamo adesso occuparci di una vicenda di cronaca particolare. Il titolo del Corriere della Sera di oggi recita così: il licenziamento del professore perché fece pipì in un cespuglio. Vedendo di riassumere abbastanza brevemente la vicenda riguarda Stefano Rò, appunto, un docente di 43 anni, sposato con tre figli, che vive a Bergamo. Che cosa è successo? È successo che, appunto, quando si è presentato per insegnare, la faccio molto semplice, poi le procedure burocratiche sono diverse, quando si è presentato per insegnare gli è stato chiesto se aveva dei precedenti penali, se aveva delle pendenze giudiziarie, e lui ha detto: no, queste pendenze non ce l'ho. In realtà era successo che, dopo una sagra di paese con un amico, era andato a farsi una birra, si era fermato alle 2 di notte a fare pipì in un cespuglio, era stato fermato dai carabinieri, e poi questa cosa successivamente gli era stata contestata. Un episodio trascurabile, è andato dal dirigente scolastico, ha detto: effettivamente è successo questo. Il dirigente scolastico ha detto: è una censura. Poi sono intervenute la ragioneria, la Corte dei Conti, e hanno imposto di fatto al dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani, di licenziare questo professore. Patrizia Graziani è con noi e la saluto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Non poteva fare diversamente lei? No, non potevamo fare diversamente perché le disposizioni della Corte dei Conti vanno rispettate, vanno eseguite. Noi avevamo proceduto diversamente perché una volta assunto l'insegnante vengono fatti tutti i controlli del caso e avevamo verificato che c'era stata questa condanna penale che non era stata dichiarata. Era stato convocato dall'ufficio per i procedimenti disciplinari che ha sede all'ufficio presso scolastico territoriale, è stato ascoltato, abbiamo ascoltato le sue ragioni e l'ufficio aveva deciso di comminargli una sanzione disciplinare in relazione, in proporzione alla gravità del cosiddetto reato. La ragioneria territoriale dello Stato che effettua i controlli di regolarità sui contratti nella sua relazione annuale ha invece relazionato alla Corte dei Conti che ciò era una grave irregolarità e di conseguenza la Corte dei Conti poi ha chiesto memoria, c'è stata una convocazione, un'audizione e indipendentemente dal tipo di reato deve essere applicato l'istituto del licenziamento proprio perché vengono a mancare i requisiti per i quali era stato conseguito il posto in ruolo. Questo perché appunto leggo dall'imputazione davanti al giudice di pace, perché in un piazzale illuminato adiacente alla pubblica via compivano atti contrari alla pubblica decenza, orinando nei pressi di un cespuglio. Questo è quello che hanno fatto. E qua il licenziamento avviene per quale motivo? Per aver dichiarato che non aveva pendenze penali o avviene proprio perché c'è questo chiamiamolo reato? No, non per il tipo di reato, perché se lui lo avesse dichiarato non ci sarebbe stato alcun seguito. Questo è avvenuto perché è venuto a mancare con la sua omessa dichiarazione quel rapporto fiduciario che sta alla base dello Stato con il proprio dipendente. Quindi è uno dei principi cardini del rapporto Stato e suoi dipendenti. Quindi è stata proprio l'omessa dichiarazione che gli ha fatto perdere i benefici, non certamente il tipo di reato, perché ci sono tipi di reato che fanno immediatamente decadere dalla posizione per poter essere assunti. Quindi solamente l'omessa dichiarazione. E da questo punto di vista, appunto, la Corte dei Conti, su indicazione della ragioneria, ho capito bene, è stata inflessibile. È stata inflessibile, tant'è vero che noi non abbiamo potuto comportarci diversamente. Tant'è vero che la Corte dei Conti non ha fatto distinzione, ma solamente sottolineato che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici conseguiti e non lascia alcun margine di discrezionalità all'amministrazione che deve solamente applicare. La ringrazio. Grazie a Patrizia Graziani, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Noi adesso, dopo questo racconto francamente allucinante, parliamo di Sanremo perché mancano pochi giorni al prossimo festival. Inizia martedì con Radio 24, lo seguiremo in GR, trasmissioni, appuntamenti speciali, ovviamente con il nostro Enrico Ruggeri, che ieri ha presentato anche il suo nuovo disco in uscita con il festival. A Sanremo i brani rock sono sempre andati male, fatta eccezione per un caso, Sanremo 93, Mistero. Tutte le altre volte, insomma, il rock è stato un po' penalizzato, però insomma, ho sempre pensato che a Sanremo esistano tre classifiche. C'è quella del sabato sera o del venerdì, e lì, vabbè, insomma, questo benedetto premio qualcuno se lo deve pur portare a casa. E quindi una volta c'è il Totip, le giurie, adesso il televoto. Va bene. Poi c'è la classifica delle vendite dei dischi e poi c'è la classifica del tempo, che è quella che mi interessa di più. A Sanremo farei anche un po' da inviato per noi, sì, a Radio 24. Mi diverto, è divertente, insomma, raccontare il fatto che ieri sono andato alle prove e c'erano i furgoni, gli operai con le scale dietro e poi tutto sarà meravigliosamente luccicante, è divertente da raccontare. Per cui anche i miei interventi in radio mireranno a quello, insomma, cercare di raccontare a degli amici anche cose che in televisione non vedi. E dunque gli appuntamenti con il Sanremo di Enrico Ruggeri saranno tutti i giorni nel GR delle 7 e qua in effetto giorno. Vedo tra l'altro molti messaggi che stanno arrivando sulla vicenda del professore. Qualcuno ci fa notare che la settimana scorsa abbiamo raccontato la vicenda di un altro professore a Genova, il quale aveva, insomma, era stato sotto processo per detenzione di immagini pedopornografiche, che era stato prescritto per questo reato, archiviato per un'accusa di molestia sessuale, che poi adesso è ai domiciliari per un'altra accusa di molestia sessuale nei confronti di un undicenne, aveva continuato ad insegnare. Bene, un bel contrasto. Ci fermiamo, ci risentiamo tra un attimo, ci sono i mercati ovviamente, poi torniamo a parlare dell'affitto romana e poi di questa legge che è passata oggi al vaglio della Camera e poi tornerà al Senato, che è una legge importante. Voi sapete l'impegno di Radio 24 per i disabili, è una legge per l'assistenza ai disabili dopo la morte dei parenti che li curano. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la morte di Giulio Regeni è stata lenta, ci sono segni di torture sul corpo per il ragazzo morto al Cairo, si apre un caso diplomatico, Gentiloni chiede indagini congiunte con l'Egitto. L'aeroporto di Madrid, ve lo riferivamo poco fa, è stato messo in allerta dopo che il comandante di un aereo saudita ha informato la torre di controllo di una minaccia, i passeggeri sono stati fatti sbarcare, sono in corso i controlli sul velivolo. Flessibilità di bilancio, decideremo a maggio, dice l'Europa all'Italia. La Commissione intanto taglia le stime sui prezzi al consumo in Europa addirittura di mezzo punto percentuale. Blitz antiterrorismo in Germania, 3 arresti anche nei campi profughi. Saranno al lavoro tra poco le task force del Comune di Roma sulla nuova affittopoli, ci sono anche sedi di SEL, PD e Fratelli d'Italia nella lista degli inquilini. La borsa. Effetto giorno. E torniamo alla vicenda dell'affittopoli romana, ve l'abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, la vicenda di tutti quegli appartamenti spesso in zone centrali di Roma o comunque in zone di pregio di Roma a pochissimi euro al mese, anche si è visto 9 euro al mese per Borgo Pio, 25 euro al mese per Corso Vittorio vicino a Piazza Navona e non solo, tra l'altro arrivano notizie che riguardano anche sedi di partito che godevano, come dire, di un trattamento privilegiato in questi appartamenti o in questi stabili di proprietà del Comune di Roma. Partono due task force disposte dal prefetto Tronca. Oggi ci aiuta a fare un punto Laura Serloni, una collega di Repubblica, una collega giornalista che sta seguendo le vicende. Laura, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, come intende procedere Tronca? Allora, Tronca di fatto ha scoperchiato questa affittopoli, anche se in realtà l'analisi del patrimonio immobiliare del Comune di Roma era già partita con il sindaco Marino. E, però che cosa ha fatto Tronca di nuovo? Perché poi ci sono molte polemiche che dicono ma Tronca non ha fatto nulla di nuovo, erano già dati noti, erano già dati pubblicati sul sito del Dipartimento Patrimonio. Tronca non ha analizzato soltanto i dati del Dipartimento Patrimonio, ma li ha incrociati con i dati delle Agenzie delle Entrate, con altri database, e si è servito di questo di una squadra, insomma, di tecnici composta da magistrati, professori e docenti universitari, e sta, insomma, andando a caccia anche del sommerso, perché oltre questi dati che erano già in gran parte noti, probabilmente emergerà anche tutto un sommerso, che sono quindi decine se non centinaia o migliaia di altri appartamenti. Ah, ecco, perfetto, quindi questi 600 dei quali stiamo parlando in queste ore sono la famosa punta dell'iceberg, potrebbero essere almeno. Esatto, potrebbero essere la punta dell'iceberg, perché in realtà in centro storico appunto questi sono emersi questi 574 appartamenti. E poi bisognerà vedere cosa si troverà anche negli altri municipi di Roma, quindi in tutta la città. Certo, naturalmente. E lui ha detto che vuole fare un'analisi a tappeto di tutto questo. Come ha intenzione, hai capito come ha intenzione di procedere dopo? Perché l'altro giorno noi abbiamo avuto l'ex assessore al patrimonio del Comune di Roma, la Cattoi, la quale ci diceva: guardate, là il problema è che nel momento nel quale lo scopro, mando una lettera all'inquilino, gli dico no, non mi devi pagare 8 euro al mese, me ne devi pagare 1400, quello va per avvocati e finiamo tra 10 anni. Si è capito come vuole procedere Tronca? Come vuole procedere ancora non è molto chiaro, nel senso che lui per ora vuole capire la dimensione del fenomeno, vuole capire quanto sia esteso, e dopodiché lui dice che procederà con gli sfratti. Bisogna vedere quanto siano, consideriamo che ci sono anche delle indagini aperte alla Corte dei Conti, che probabilmente aprirà un quarto fascicolo con i dati, con gli ultimi dati del Comune. Ci sono due indagini in corso in procura e probabilmente, insomma, quindi, queste carte confluiranno. Come dire, non è per nulla facile capire come si potrà procedere dopo. Io ti ringrazio, grazie a Laura Serloni, giornalista di Repubblica, che sta seguendo tutte le vicende. Allora, come sapete, Radio 24 ha lanciato un'iniziativa qualche tempo fa, partendo da Melog di Gianluca Nicoletti, un'iniziativa che guarda al mondo della disabilità. Anche noi disabili. E oggi vogliamo parlare di un provvedimento legislativo, è un provvedimento legislativo che oggi ha ricevuto il via libera dalla Camera dei Deputati, adesso passa al Senato, un voto quasi unanime, fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle che ha espresso il suo no. Chi firma questa legge, che si chiama Dopo di Noi ed è dedicata all'assistenza ai disabili dopo la morte dei parenti che li curano, è Elena Carnevali del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. A voi, bentrovati. Che cosa contiene questa legge? Che cosa c'è in queste norme? Ma questa legge ha un grande obiettivo, di cui siamo assolutamente consapevoli che si realizzerà nel tempo. L'obiettivo finale è quello di riuscire finalmente ad avere un'esigibilità del diritto. Adesso lo dobbiamo fare attraverso quello che è una disposizione che c'è, che è una legge che viene chiamato gli obiettivi di servizio. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare che in Italia superi questo gap che c'è, che ha visto fino ad oggi l'asse portante per la residenzialità per gli adulti esclusivamente orientata alle strutture, alle residenze sociosanitarie per disabili, e non ha previsto invece quello, l'87% sto parlando, e non ha previsto invece di sperimentare, tranne grazie alla volontà di qualche amministratore lungimirante, soprattutto del mondo. Però mi scusi Carnevali, dato che abbiamo veramente poco tempo, purtroppo ci siamo allungati, anche se parleremo più a lungo con lei, ci dice in 30 secondi, 40 secondi, quali sono le cose principali, che cosa succederà quando questa legge entrerà in vigore e verrà approvata anche al Senato, cosa succederà ai disabili nel momento nel quale i parenti che li curano moriranno? Avranno la possibilità, con 90 milioni di euro che sono dedicati nel 2016, di poter avere strutturato nel territorio un'accoglienza diffusa in piccole residenze che devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali delle famiglie. Sosteniamo anche i progetti e anche la domiciliarità in queste nuove residenze. Questa legge non è per i muri, questa legge è per la persona, per garantire a loro una qualità di vita costruita nel tempo, ed è di questa che serve, per dare una garanzia alle famiglie e per consentire loro di avere un'emancipazione delle famiglie. La ringrazio, grazie ad Elena Carnevali del Partito Democratico. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.